9 in punto, la versione di Oscar. Buon martedì 12 ottobre e oggi tenteremo di capire chi ha ragione su questo dilemma, questi due corni, due partiti che da Washington, dall'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale, hanno dato giudizi sufficientemente contrastanti, tanto da indurci a grattarci la testa e a tentare di capire insieme agli ospiti di oggi e a chiedervi come la pensate su queste due opinioni. Da una parte c'è il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che dice: sono tornati i banchieri della speculazione, fanno grandi feste con champagne qua a Washington, hanno due anni che non si vedevano più e invece si capisce che è tutto tornato nelle loro sicure mani, menano il gioco con la finanza speculativa, con i soldi dei contribuenti che continuano a produrre grandi utili, perché vengono utilizzati più che per gli impieghi tradizionali per l'acquisto e la compravendita di prodotti finanziari, e gli speculatori sono tornati sui mercati a livelli superiori a quelli della crisi. Dall'altra, Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, presidente del Financial Stability Board, che dice: ma insomma, a me pare che in realtà il rischio ponderato sia molto più sicuro oggi dopo le regole nuove, il dibattito che si è aperto, mi sembra che siano fenomeni molto più limitati, e quindi per il governatore della Banca d'Italia eccede, sbaglia, preme troppo sul pedale dell'acceleratore emotivo il ministro dell'economia. Sentiamolo, il ministro dell'economia. Primo, non è il caso dell'Italia che non ha dovuto salvare le sue banche. Secondo, i soldi dei cittadini sono andati per salvare il sistema bancario e nel sistema bancario anche per salvare gli speculatori. Non fu così nel 29, negli anni dopo i soldi pubblici furono usati per il bene pubblico e chi aveva speculato e sbagliato allora ha pagato, adesso invece no. Il volume della speculazione è tornato a come era prima della crisi. Il mostro di oggi è quello dei cambi, il confronto tra tre grandi blocchi continentali, l'Asia, la Cina con la sua moneta, l'Europa con la sua moneta, l'America con la sua moneta. Ecco, quello dei cambi è un punto fondamentale, il cambio giusto stabilizza, il cambio sbagliato destabilizza perché noi non possiamo più esportare, basta un pezzettino di cambio sbagliato per spiazzare l'industria italiana per esempio. Questo è il grande problema che abbiamo oggi. Allora, che cos'è tecnicamente poi la speculazione? È la somma di tutte le scommesse sul mercato, sui prezzi, che è diventato sempre più negli anni, ma da sempre in realtà, le scommesse sui prezzi a seconda dell'andamento delle stagioni sono testimoniate già nei testi dell'Atene preclassica, ma fatti da su mercati non regolamentati, i cosiddetti futures over the counter. Over the counter significa appunto su mercati non regolamentati. A che livelli sono rispetto al pre-crisi? E qui, a seconda di quali siano i rapporti che prendete in mano da grandi operatori di mercato, in realtà trovate le cose più varie e diverse. E quindi, per chi non è un grande esperto e non sa distinguere tra operazioni sui futures fatti da hedge fund, cioè fondi ad alta leva, oppure da fondi ordinari tramite gli swap dealers, che sono interlocutori specializzati in triangolazioni su andamenti futuri dei prezzi in salita o in discesa, è un po' difficile capire. Allora abbiamo tentato di vedere un pochino cosa dicono le maggiori banche nell'analizzare il mercato, e dicono cose abbastanza contrastanti, perché per esempio se andate a sfogliare gli ultimi report della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, la banca delle banche centrali, per così dire, uno dei pochi posti al mondo che ammoniva contro la politica monetaria di Alan Greenspan, troppo lasca, che ci regalava un'oceanica liquidità che andava per lo più verso impieghi speculativi, per esempio la BRI dice che in effetti avrebbe ragione Tremonti, perché se andiamo a vedere gli scambi giornalieri in derivati over the counter, quelli su mercati non regolamentati, tra il 2007, quindi pre-crisi, e il 2010, questi sono dati che si riferiscono allo scorso mese di maggio, ebbene i volumi di questi scambi sono aumentati di più di un quarto, perché sono passati da 1.700 a 2.100 miliardi di dollari al giorno. e più o meno sarebbero fino a metà di quest'anno erano stabili i derivati in cambi, quelli di cui stava parlando il ministro dell'economia adesso a proposito della guerra, per tenere basso in termini mercantili il valore dello yuan, il valore del dollaro, l'euro che si apprezza, quindi in questa fase arriva fino a 1,40 e quindi perde competitività rispetto al problema di fare più export per la crescita tedesca e anche italiana. E invece se andate a vedere quello che pensano altre grandi banche su dei sottomercati, delle scommesse, diciamo così, speculative, trovate tesi anche contrastanti, perché per esempio Bank of America ha lasciato un report la scorsa settimana il cui titolo era attenzione, non c'è abbastanza speculazione sulle commodities, cioè sulle materie prime, su quelle alimentari, su quelle energetiche, perché la tesi di Bank of America è negli ultimi due mesi ci sono troppe poche scommesse sui prezzi del petrolio fatte da operatori non commerciali, cioè da coloro che non vendono e comprano davvero partite di petrolio guardando agli andamenti della domanda e dell'offerta internazionale, ma lo fanno esclusivamente come scommessa di prezzo. E da questo punto di vista, diceva Bank of America, questo purtroppo è penalizzante, perché il prezzo del greggio non sta incorporando in termini sufficienti l'avvaloramento delle aspettative di crescita mondiale, proprio perché, a furia di parlare male degli speculatori finanziari, una quota di loro è in uscita dall'andamento dei prezzi energetici perché si è dedicata ad altro. Però se invece sfogliate altri report, ne ho guardato gli ultimi due di Merrill Lynch e di Goldman Sachs relativa al mercato dei beni alimentari, beh, lì diciamo le scommesse finanziarie altro che se restano pesanti, perché per esempio le posizioni degli hedge fund sui futures del grano sono più di un quarto del mercato, del totale delle scommesse finanziarie. Sul gas naturale sono tra il 23 e il 27% a seconda degli andamenti giornalieri. Insomma, stiamo parlando di quote di mercato, ripeto, tutte su mercati non regolamentati, che anche se alcuni operatori come Bank of America dicono purtroppo sono ancora pochi, sono pochi forse per fare profitti finanziari a breve, ma insomma da questo punto di vista sembrerebbe che il ministro dell'economia non abbia torto. Ma qual è la replica del governatore? La replica del governatore è, per quello che conta davvero, cioè per gli intermediari finanziari, quelli grossi, quelli pesanti, quelli che hanno il denaro dei depositanti e così via, il rischio ponderato, cioè la capacità di saper rispondere delle unità di capitale utilizzate in questi acquisti, è molto aumentato, perché i regolatori li hanno obbligati ad avere capitale più intenso, più migliore, tra l'altro con meno capitale ibrido e più capitale immediatamente realizzabile, e questo fa la differenza, perché intermediari più solidi patrimonialmente significa operatori che possono fare anche scommesse finanziarie in cui però l'elemento di rischio non diventa un elemento sistemico. Chi ha ragione tra queste due tesi? Lo chiediamo ai nostri ospiti dopo questa mia breve introduzione iniziale, che come vedete non è che abbia dato una risposta, anche se i dati quantitativi insomma hanno la loro importanza. Allora, abbiamo collegati con noi da una parte Giulio Sapelli, buongiorno professor Sapelli. Buongiorno. E dall'altra Donato Masciandaro, buongiorno Masciandaro. Buongiorno dottor Giannini. Sento un po' di fruscio sotto Masciandaro. Diciamo che da una parte storico dell'economia e dell'industria, dall'altro Masciandaro uno degli osservatori più documentati sui termini della regolazione finanziaria. Cominciamo con Sapelli. Secondo lei chi ha ragione un po' tra Tremonti e Draghi? Ma sicuramente ha ragione Tremonti. Adesso si bisogna fare un discorso semplice, perché lo capisca anche la signora Gina. Insomma, tra i due ha indubbiamente ragione Tremonti. Draghi naturalmente si appella alle nuove regole che sono state incorporate in Basilea 3, però ha completamente torto se guardi invece alla riforma mancata dei mercati americani, no? Diciamo che la linea Obama, che è una linea condizionata fortemente da operatori finanziari come Goldman Sachs, eccetera, cioè la sua constituency, ha completamente evitato di attuare quella riforma invocata dal grande vecchio, il saggio di Wall Street, Volcker, che reclamava che piuttosto che una iper-regulation, questo è sconcertante quando questa internazionale dei banchieri mondiali scopre il modello Gosplan, no? Pensa che ci sia un'economia centralizzata della regolazione attraverso la quale si potrebbero controllare migliaia di operatori. Non si tratta di iperregolare, ma di spezzare l'industria finanziaria così come si è determinata dopo la metà degli anni Ottanta attraverso la famigerata legge Amato in Italia e la fine della separazione, l'Ortega Grassetti negli Stati Uniti, che ha fatto finire la separazione tra banca commerciale e banche di investimento. Lì ha cominciato a cadere giù tutto, insomma. Si usano i soldi dei depositanti in modo improprio per fare queste speculazioni. Poi la speculazione c'è sempre stata e, diciamo così, è la vita dei mercati finanziari, aiuta a renderli anche meno imperfetti di quanto strutturalmente siano e di quanto non credono quelli che credono nella regolazione, no? Che sono gli illusi neoclassici che hanno provocato la strage degli innocenti, dovrebbero andare a casa e non parlare più per alcuni mesi, ritirarsi in convento, invece parlano garruli e allegri, anzi tronfi di boria. E problema vero è che se non si è spezzata questa industria mondiale si arriva di nuovo ad una speculazione che non è fisiologica ma è patologica, perché quando si ritorna a meccanismi di leva della proporzione di ora, anche le giusti passi avanti fatti da Basilea 3, fatti da questo Financial Stability Forum, che è così, è un po' una foglia di fico, ma va bene, bisogna rassicurare la plebe, però sì, certo, si creano delle dighe, si aumentano i livelli di capitalizzazione e di patrimonializzazione, ma questi davanti anche a quei dati che lei ha presentato in riferimento alle commodities, il problema che c'è meno attività non commerciale sul petrolio ha delle ragioni strutturali derivanti dal tipo di industria particolare, però dove questi colli di bottiglia strutturali non ci sono e ci può essere un mercato finanziario completamente scollegato dal mercato commerciale come quello delle commodities alimentari, vediamo che siamo giunti a ben oltre i livelli che avevamo anche prima della crisi, insomma. Quindi non è cambiato sostanzialmente nulla, anzi si è aggravato, perché vede, la lepre diventa intelligente se vede che il cacciatore misura meglio i suoi colpi, si mette un cannocchiale per colpirla. Beh, la lepre è molto furba, cambia, corre di più, quindi i rischi che questa nuova internazionale della nuova leisure class, come la chiamo io, della nuova classe agiata, dei banchieri stock optionisti, possono far correre ai depositanti e all'economia reale sono molto più grandi, quindi la crisi finanziaria è destinata a prolungarsi forse all'infinito. Quindi per saperli, politici e regolatori in buona sostanza non hanno acchiappato la lepre, anzi la lepre ha fatto una mutazione genetica, diventata ancora più brava a scappare, per essere chiaro. E la lepre significa molti rischi, per chi magari capisce meno di queste cose, ma molti rischi. Ecco. Allora, Masciandaro, sono anni che discutiamo tra addetti ai lavori su come con la regolazione migliora la ponderazione del capitale di vigilanza, il patrimonio accumulato, eccetera, eccetera. Sapelli dice, sono un po' foglie di fico per la comunità di chi conta davvero, questa internazionale non dichiarata, che però è quella dei banchieri stock optionisti, cioè quelli che poi con i risultati a breve e con utilizzo di capitali anche dei depositanti, soprattutto in attività finanziarie rischiose ma ad alto ritorno a breve con i mercati speculativi, continuano in realtà a dominare la realtà del modello di intermediazione dominante. E quindi la regolazione americana, che durerà fino al 2019 ma che passo passo dovrà essere contrattata tra grandi banche che sono le stesse di prima, anche se qualcuno ha cambiato nome, con i singoli regolatori americani; dall'altra l'architettura barocca europea con la macrostabilità, i tre consigli distinti per soggetti vigilati, eccetera. Ma nella buona sostanza, come si vede, non è cambiato molto. È così secondo lei? Guardi, io per non far addormentare i nostri ascoltatori cercherò di essere sintetico al costo di essere drastico. In primo luogo il quesito che lei pone mi meraviglia che lo ponga lei, dottor Giannino, perché lei è sempre stato più approfondito della media dei media. Ma io devo fare ogni tanto la media. Nel senso, nel senso che in realtà il quesito, hanno ragione tutte e due, basta prendere le dichiarazioni giuste, stanno dicendo entrambi la stessa cosa, perché il Tremonti che dice che i banker sono tornati mi trova completamente d'accordo solo sul verbo, non sono andati via, ed è il Tremonti è lo stesso Draghi che racconta qualche giorno fa, attenzione, il sistema bancario ombra è ancora funzionante. Quindi in realtà in momenti diversi, al di là poi delle vesti istituzionali, uno è un banchiere centrale e uno è un ministro, ci stanno raccontando la stessa cosa, solo che nessuno li ascolta. E la ragione la ricordava anche lei quando ha detto che ormai sono anni che in pochi diventiamo rauchi con la voce a ripetere le stesse cose, nel senso che adesso tutti parlano di regolamentazione, ma è qualche anno che almeno taluno, qualche happy few, segnalava quali erano questi problemi. Ed è facile dire che i problemi continueranno, perché per interpretare la regolamentazione l'analisi economica non basta l'analisi storica, l'unica chiave di lettura è quella di political economy, capire cioè qual è l'analisi costi-benefici del politico che è al governo per capire dove si andrà a parare, e arrivo a dove si andrà a parare: in 3 anni non si è fatto nulla, per cui io mi sto convincendo che se aspettiamo che dai central banker e dai banker uniti ai politici cambi qualcosa, credo che dovremmo essere delusi. Mi sto convincendo che occorrono riforme fuori dal perimetro bancario, che riguardano la tassazione, ma una tassazione non come quella proposta finora dal populismo di grana grossa, cioè sulle dimensioni e sui profitti. Bisogna lavorare sull'eccesso di leva, bisogna lavorare sull'eccesso di rischio, come si fa in tutte le industrie in cui ci sono delle esternalità. Allora, la chiave di lettura, secondo me, divertente, cioè per far capire meglio, professor Masciandaro, chi ci ascolta, se una banca utilizza parte dei propri mezzi in attività più alto rischio, su quella paga una tassa più alta. No, dottor Giannino, qui bisogna partire dall'inizio. Come quando nell'industria ci sono delle fabbriche specifiche che creano, che sappiamo che possono creare inquinamento, quelle fabbriche si tassano sulla loro attività. Allora bisogna prendere tutti i prodotti, dal più semplice, il deposito, al più complesso, il derivato, e chiedersi qual è il rischio di inquinamento di questi depositi, e qualunque transazione deve essere ex ante sottoposta a tassazione. Aggiungo anche che qui supereremmo anche il problema dell'over the counter, perché se si decide che questo è giusto ed è buono per evitare l'inquinamento, basterebbe dire che tutti i contratti sottoscritti e non tassati sono nulli agli effetti di legge. Tutti i contratti derivati improvvisamente comparirebbero, forse sarebbero di meno, ma il rischio di instabilità sarebbe più basso. E concludo: non interessa il fatto che le singole banche o l'intermediario, il grande intermediario sia meno impegnato, perché non sono saltati i grandi intermediari, il sistema è saltato per buchi che nascevano in alta parte del perimetro dell'industria finanziaria. Naturalmente questa a cui è arrivata, per farvi capire, quindi con qualche spregiudicatezza tecnica, il professor Masciandaro, è un po' una sconfitta dei regolatori, diciamo, pre-crisi, nel senso che dire, ma non è una sconfitta sua, cioè, per spiegarci, dire che i prodotti a seconda del tipo di rischio vanno incontro a una tassazione ex ante diversificata rispetto alla piena libertà che c'era e che era teorizzata come una piena libertà portatrice non solo di utili e di crescita, non solo del settore finanziario, ma addirittura stabilizzatrice, in quanto comprendeva scommesse verso l'alto e verso il basso dei prezzi. Questa era la teoria prima della crisi. È un bel passo in una direzione significativamente diversa, come ovvio, oltre al fatto che, insomma, la comunità finanziaria delle tasse in generale non è che avesse una elevata opinione prima della crisi. Bene, ora abbiamo la pubblicità, poi torniamo anche con un altro ospite. Eccoci tornati in studio oggi su questo tema, il dilemma da cui abbiamo cominciato, i giudizi di Tremonti, i giudizi di Draghi. Dice il professor Sapelli, che insegna storia economica alla Statale di Milano, ha ragione Tremonti, la speculazione è come prima, peggio di prima, sono tornati i bankers, anzi i banksters, come dicono alcuni, facendo un acronimo insieme tra banker, banchieri e gangsters. E invece il professor Donato Masciandaro insegna economia politica alla Bocconi ed è uno dei maggiori esperti italiani e internazionali in Europa di regolazione dei mercati finanziari, ci dice: no, ma in realtà siamo attenti, Tremonti e Draghi stanno dicendo più o meno la stessa cosa, ed è vero però che si è fatto ben poco, tant'è che Masciandaro ha detto: io sto cambiando prospettiva, qua bisogna usare la leva fiscale per invece che pensare alle grandi architetture regolatorie per soggetti o per funzioni, e usiamo la leva fiscale a seconda del tipo di prodotto. Ogni fabbrica di prodotti finanziari deve sapere che per ogni tipo di prodotto e di servizio, a seconda del coefficiente di rischio insito in quel prodotto, ci sarà una tassazione diversificata. Poi c'è anche un'altra tesi che sui giornali poi si avanza, di questa eterna rappresentazione verso la quale Masciandaro è stato un po' critico, dicendo: beh, dobbiamo sapere che poi in realtà i due, se li si legge bene, Draghi e Tremonti, non è che dicano cose molto diverse, perché c'è anche una sceneggiatura giornalistica, lo sapete benissimo, cioè sono due tra coloro verso i quali la stampa più mette le antenne verso l'ipotesi di governi tecnici. Oggi, per esempio, trovate su Riformista un articolo di Peppino Caldarola proprio su questo, che dice: Draghi e Tremonti, sì, in realtà dicono cose che vengono sceneggiate come se fossero molto diverse, ma perché c'è un sottostante politico. E come conclude Caldarola? Dice che la soluzione di un governo tecnico Draghi rappresenterebbe la fase di decantazione della politica, affidata alle cure di un esperto timoniere delle bizzarrie dell'economia. Ma invece la soluzione Tremonti interverrebbe nel cuore della crisi del vecchio sistema politico, affidandogli il compito di traghettare il centrodestra, ovvero quel che ne sarà, in un'altra stagione. Draghi, continua Caldarola, sarebbe l'uomo dell'emergenza economica se si presentasse il rischio Grecia, cioè se ripartisse il ballo dell'eurodebito. Tremonti sarebbe invece il volto dell'emergenza politica se il castello berlusconiano venisse preso d'assalto. Ma alla fine, conclude Caldarola, dice, tutti e due dovrebbero riflettere in attesa del prossimo conflitto che li vedrà contrapposti. Caldarola parla all'indicativo futuro, li vedrà, non ha dubbi, però dovrebbero riflettere sul fatto che, come ha detto Bersani, Berlusconi è un osso duro. Ecco. Allora, su questo giudizio di Caldarola facciamo intervenire il nostro terzo ospite di oggi, Franco De Benedetti, che è editorialista del Sole 24 Ore, è stato senatore con il centro-sinistra per 3 legislature, un grande appassionato di mercato, quello che si definirebbe un mercatista, come direbbe Tremonti, e anche lui naturalmente si occupa di regolazione dei mercati. Grazie a Franco De Benedetti. Buona giornata. Allora, lei nel partito ha ragione Tremonti, è tornata la speculazione e i banchieri cattivi con le grandi feste, champagne a Washington, oppure Draghi che dice: ma insomma non esageriamo, eccetera eccetera, e dà ragione a uno dei due, e per la tesi Masciandaro che dice in realtà dicono la stessa cosa, o è per la tesi di Sapelli che dice è come prima peggio di prima perché c'è una comunità di banchieri irresponsabili, stock optionisti che continuano a menare le danze, che dicano politici, regolatori e giornalisti, come la pensa? Ma quanto alla qualità e alla quantità dello champagne non saprei pronunciarmi. Quello che è certo è che la speculazione c'è, ma la speculazione c'è perché così fanno le banche centrali. Cioè, quando si qui c'è un elemento nuovo, bene. Quando si dà il denaro a tasso zero, la gente lo prende e qualunque cosa diventa interessante, qualunque operazione diventa interessante, le bolle nascono dal passare quando c'è troppo denaro. Il denaro, oggi siamo immersi in un denaro, c'è un profluvio di denaro. Quando il denaro che viene stampato, nelle tasche di chi va? Che cosa ne fanno? Chi lo prende? Che cosa ne fa? Certamente va in operazioni, tutte le operazioni diventano interessanti, perché a tasso zero, quando il denaro non costa niente, basta un piccolo rendimento perché l'operazione diventa interessante, e questo gonfia le bolle. Quindi è vero che la speculazione, se la vogliamo chiamare speculazione, certamente diventano interessanti moltissime operazioni, tant'è vero che tutti hanno paura che, ma non lo dicono solo da adesso, che si sviluppino delle nuove bolle. In questo senso hanno ragione, però la causa non sta nei banchieri, i quali reagiscono alle operazioni che vengono proposte. Quindi De Benedetti, se io la interrompo solo per far capire meglio chi ascolta, se la prendiamo alla lettera, e innanzitutto è questa oceanica liquidità a tassi negativi, anzi con acquisti sul mercato, cioè si inventano ogni settimana strade nuove i banchieri centrali per inondare di liquidità i mercati, ma se questa è la prima origine della speculazione, in realtà i politici che godono di questa politica accondiscendente dei banchieri centrali lamentano da una parte gli speculatori come se fossero i banchieri cattivi, ma dall'altra loro sono d'accordo con i banchieri centrali accondiscendenti e sono loro la vera origine, perché questa politica fa costare meno anche il debito pubblico. Ma non c'è dubbio. D'altra parte è molto facile prendersela con i banchieri, anzi come dice Tremonti con i banker, con la K come Cossiga. Però voglio dire è un argomento che può populisticamente dare qualche piccolo dividendo, ma in realtà non hai, secondo me da questo punto di vista non credo che neanche Tremonti ci creda che siano i bonus a provocare, che siano stati i bonus o possono essere i bonus a provocare le crisi bancarie. Aspetti un secondo, la fermo perché su questo proprio rapidissimamente sentiamo i nostri due interlocutori. Sapelli, ha sentito qui? È una delle poche volte con cui non sono d'accordo col mio grande, carissimo amico Franco. E guarda che Franco, che è vero che c'è, ma innanzitutto il vero pericolo è la deflazione. Poi come ci insegna il mai ricordato Minsky, che è stato l'unico a capire tutto quello che stava accadendo, gli eccessi di liquidità sono soprattutto nei profitti delle grandi corporation, non tanto nelle grandi banche centrali. Il denaro, ci sono stati casi storici dove il denaro tendeva allo zero, però non c'erano bolle speculative. Quindi, il problema vero non è quello. Fermo Sapelli prima che diventi troppo tecnico. La tesi di Sapelli è: no, la politica molto liquida delle banche centrali serve a impedire la deflazione, quindi più che accondiscendere la politica e alimentare la speculazione è la lezione che abbiamo imparato dagli anni 30, quindi attenti a criticarla troppo. Che pensa invece Masciandaro? Sono i primi responsabili i banchieri centrali e quindi i politici che in realtà dai banchieri centrali oggi ottengono una buona maniera di far vedere meno il debito pubblico che accumulano, oppure no per la speculazione? I primi responsabili sono politici che hanno la loro analisi costi-benefici di tipo elettorale, sono razionali, e i banchieri centrali accondiscendenti, quindi senz'altro sì Greenspan e Ben Bernanke, senz'altro no Trichet. Tutte le responsabilità, ha ragione il senatore De Benedetti, tutte le responsabilità vanno a chi disegna innanzitutto le regole del gioco fatte male, o meglio assolutamente razionali rispetto ai propri obiettivi. Poi il tema soprattutto dei bonus dei banchieri mi sembra veramente una stupidaggine, nel senso che nell'ordine, dato un disastro finanziario, nell'ordine di grandezza delle failure sicuramente il tema dei bonus davvero è irrilevante. Allora, Masciandaro dà ragione a Franco De Benedetti, Sapelli diciamo no, non è d'accordo. Proseguiamo con Franco De Benedetti il ragionamento. Il politico che, diciamo, può essere di centrodestra, di centrosinistra, talvolta non si capisce qual è la differenza, ma usa l'argomento dei bonus e dei banchieri, secondo Franco De Benedetti, lo fa perché è un argomento facilmente popolare, un po' demagogico, eccetera, eccetera, oppure poi, al di là della demagogia, che è facile criticare, ma poi il politico deve prendere i voti, c'è un tema vero che continua a riguardare la comunità che è alla testa delle banche, alla testa delle grandi imprese? Chi dice i bonus? Dice la verità o vede solo una pagliuzza rispetto alla trave, secondo lei? Ma chi dice i bonus, dunque, prima di tutto, ci sono delle cose che un fatto riguardo i bonus non riesco a spiegarmi. E come guardate, a capo delle banche, delle grandi banche, ci si arriva con un processo di selezione micidiale, quindi lì c'è gente capace, sono folle quelle che dicono che lì vengono c'è gente con grande professionalità, molto capace. Quello che è strano è che non capiscano e non abbiano capito, soprattutto in certe cose che si sono verificate circa un anno fa, la necessità di tener conto di un'opinione pubblica. Ecco, questo secondo me che deve entrare, la considerazione dell'opinione pubblica deve entrare nelle decisioni di personaggi che sono alla testa di istituzioni così importanti per l'opinione pubblica. Questo che non sia stato in molti casi considerato, ci sono state delle cose che sicuramente hanno urtato la giusta sensibilità di moltissima gente, che di questo non si sia tenuto conto, non riesco a rendermene ragione da parte di persone con grande professionalità. Detto questo, c'è poi un altro problema. Per quale motivo? C'è un problema, diciamo, di concorrenza che però si spiega con lo star system in tutti i campi. Quando ci sono le posizioni apicali che possono andare dalla lirica al calcio ai grandi manager, c'è sicuramente uno star system che porta a dare delle valutazioni, a conferire degli stipendi, delle remunerazioni abbastanza da far girare la testa a certe posizioni apicali. Ma questo è un problema che con la crisi e con la può interessare semmai gli azionisti delle banche, ma che con la crisi non ha assolutamente nulla a che vedere, c'è una considerazione molto a latere. Quindi io credo che l'andare a spiegare dei fenomeni così complessi come quelli che hanno portato alla crisi di 3 anni fa e possibilmente a quelle che si potrebbero anche innescare sulla grande liquidità che c'è oggi, e spiegare questo con i bonus dei banchieri è una spiegazione facile ed è l'unica ed è tra l'altro la più conveniente per i politici, perché comunque trovano un capro espiatorio ed evitano in questo modo di prendere le decisioni difficili che dovrebbero altrimenti prendere e che, se vogliamo ridurre le cose all'osso, si vanno tutte a finire nel too big to fail, esatto. Cioè nel dare assicurazioni al mercato che le banche non verranno salvate, e questo è un problema complicatissimo. Io consiglio a tutti di leggere Fault Lines di Raghuram Rajan, che secondo me è di questi fenomeni una spiegazione che io ho trovato più convincente, e cioè di una serie di faglie tettoniche della tettonica finanziaria che hanno contribuito a creare la crisi finanziaria poi diventata crisi economica e che permangono, perché la faglia tra l'economia americana e l'economia cinese è lì, e così si potrebbe continuare. Raghuram Rajan, il coautore con Luigi Zingales di libri come Salvare il capitalismo dai capitalisti, se non ricordo male. Comunque, nella parte dopo le informazioni sulla circolazione stradale, vediamo poi il mercato italiano. È una domanda per tutti e tre i nostri ospiti. Dopo l'ingloriosa dipartita o la giustificata dipartita di Profumo, ma in realtà sul mercato italiano, di questo dibattito, che cosa vuol dire per chi ci ascolta, per il depositante, per chi chiede un consiglio sul risparmio gestito e continua a pagare in realtà un premio al rischio dell'intermediario italiano rispetto a impieghi di qualunque analogo ammontare negli altri paesi europei, dove certo lo Stato è intervenuto, però perché qui si paga di più? E cosa vuol dire quindi il tema della speculazione e dei bankers tradotto nel mercato italiano oggi? Lo sentiremo dai nostri tre ospiti, intanto strada. Eccoci tornati in studio. Le agenzie battono scritte e uova contro la sede di Terni della CISL. Continua questa escalation di qualche matto che crede di aver identificato Raffaele Bonanni nella sua organizzazione sindacale, una specie di nuova riedizione dei servi dei padroni dello Stato imperialista delle multinazionali. Tutta la mia personale solidarietà a Raffaele Bonanni e ai sindacalisti della CISL che contrattano, non si arrendono alle imprese, ma contrattano perché capiscono che il mondo aperto ha bisogno di lavorare di più senza rinunciare a nessun diritto e di avere più soldi in tasca, a differenza di quello che porta chi dice no, perché i soldi in tasca non vuole che i lavoratori ce l'abbia in più, perché a questo si riduce la posizione dei signori della FIOM che tanto dicono che non vengono più ai miei microfoni e che poi alla fine finiscono per giustificare queste cose che abbiamo visto negli anni passati e sappiamo dove portano. Quindi i signori delle uova e delle scritte contro le sedi della CISL, bisognerebbe che, lo aggiungo sì, io che sono liberale, che le forze di polizia si li identificassero, perché è meglio fermarli adesso, prima che qualche altra figlia di magistrato faccia qualche stupidaggine di cui per qualche anno si deve pentire. Questa è la mia durissima opinione. Allora, Sapelli, per il risparmiatore italiano, in realtà, questo dibattito che abbiamo fatto rispetto al sistema bancario di cui per anni abbiamo detto male popolari, le banche di credito cooperativo hanno retto meglio delle grandi, poi alla fine Profumo se ne va per una ragione o per l'altra. Cosa può voler dire per il risparmiatore italiano tema di cui stiamo parlando oggi? Più fiducia, meno fiducia, o semplicemente paga di più come pagava di più prima? Ma innanzitutto lasciami prima dire che condivido pienamente quello che hai detto sui casi della CISL, che certe persone andrebbero arrestate subito, ma adesso questo è chiuso la parentesi. E cosa vuol dire? Vuol dire che in questi anni c'è stata la strage degli innocenti, che a piccole imprese, a famiglie, sono state vendute derivati, o anche derivati plan vaniglia, cioè derivati che sembravano innocui. Beh, ecco, ma voglio dire, il gambling, la scommessa, è stata la vendita di armi di distruzione di massa su scala di massa. Mi sconcerta che una persona come De Benedetti riduca il problema del bonus a una pagliuzza. Il problema del bonus non è tanto il bonus in sé, non bisogna farne un caso personale, è un meccanismo di un sistema economico-finanziario che bisogna interpretare in modo dinamico, dove la creazione di un conflitto di interesse permanente tra manager e azionisti, quando tutti diventano azionisti non c'è più divisione tra proprietà e controllo. Questo è avvenuto in un mercato finanziario fortemente imperfetto, e per cui si sono esposti a rischi crescenti persone semplici che sono state distrutte. Il consiglio è: tenete i soldi sul conto corrente, andate dalle banche popolari, andate nelle casse cooperative rurali, mettete i vostri soldi lì, e se mettete i soldi nelle grandi banche, perché tutti facciamo delle cose per inerzia, teneteli sul conto corrente, non comprate nessun prodotto finanziario. Questo bisogna dirlo in modo chiaro, perché sennò tra un po' la gente non depositerà più neanche i denari in banca. Esatto, torna a tenere nel materasso. Ma Sciandaro, lei invece, al risparmiatore italiano che guarda questo dibattito senza capire bene quanta politica ci sia, quanto sia lontano tra i grandi schemi regolatori del mercato mondiale, dice: boh, ma a me in definitiva, io vedo che credito mi costava di più prima, ancora meno, ancora di più adesso, se no. Che cosa diciamo al risparmiatore italiano? Di tutto questo cosa gliene verrà in tasca? Beh, credo di continuare. Allora, credo che debba smetterlo se è stato passivo, cercare di informarsi sempre di più. Non è possibile che per comprare un vestito l'italiano medio ci mette di più che per scegliere la sua forma di investimento. Supportare anche i costi di scegliere un cambiamento. E io credo che il futuro sarà un futuro in cui sarà maggiore la complessità, la fiducia va data con attenzione e alla fine della fiera guardare sempre chi è il proprio interlocutore e leggere tutti i contratti, dalla prima riga all'ultima, anche se l'ultima è scritta in Times New Roman 8. Ecco, con istruzioni per l'uso, devo dire che io condivido, gli italiani continuano a occuparsi di più del colore del rimmel della propria fidanzata che di quanto in tasca gli resta se lo impiegano in un modo o nell'altro, e fanno un utilizzo del loro patrimonio, siamo il paese più patrimonializzato di tutti, mattone, come se il mattone gli fosse caduto sulla testa. Voi il mattone ce l'avete troppo nella zucca, cari italiani, cioè prendete una quota troppo elevata del vostro reddito disponibile, talora basso e medio, impegnandola per troppi anni e decenni al servizio di una attività di cui poi non incorporate il valore nell'unità temporale. Questo è un atteggiamento economicamente un po' irragionevole, per quanto vi dà molta sicurezza poi per voi e i vostri figli. Non voglio biasimarvi, però insomma un pochino più di interesse composto non sarebbe male se gli italiani sapessero fare questa attività. De Benedetti, della sua opinione invece, venendo al mercato italiano, ai comportamenti dei risparmiatori, a che tipo di banca scegliere e che tipo di impiego fare dei propri risparmi, di questo dibattito che abbiamo fatto oggi, Draghi, Tremonti, che cosa ne viene? Che consigli le vengono? Ma consigli non ne darò mai, perché io le chiedo consigli, non è che ne do. E quindi io credo che non fosse che poi dall'altro lato sappiamo che ci sono le nostre le 200 buone medie aziende italiane che sono molto dinamiche, che vanno in giro per il mondo. Non fosse per questo, il dibattito e soprattutto l'introduzione che lei ha fatto prima, parlando del tipo Nanni, della CISL, della FIOM, della CGL, io credo che dà l'impressione di una grande chiusura, di un paese che è isolato dal resto del mondo. Lei ha detto dobbiamo lavorare di più, ma noi non abbiamo idea di come si lavora nel resto del mondo. Noi, questo è, secondo me, noi non capiamo, che crediamo di vivere in certo senso su un'isola felice. In fondo anche i conti dell'Italia non vanno peggio degli altri, la disoccupazione sì è alta, però altri stanno peggio di noi. Noi crediamo di vivere in un'isola felice, noi viviamo in un'isola momentaneamente e temporaneamente isolata. Questa è la mia impressione. E questo vale sicuramente per il mercato del lavoro e per il modo di lavorare, e vale sicuramente anche per l'impiego dei mezzi finanziari. Io capisco, può darsi che in questo momento l'asset class, come si dice, migliore sia quella della liquidità. Io non lo credo, ma può anche darsi che sia così. Ma io non credo che possiamo rifugiarci nel piccolo mondo. No, basta, quelli non ha detto questo, ha detto che il rischio è che la gente creda quello, in effetti, sì. Il rischio è che la gente creda quello. E Franco Emeretti ci conclude con questo apparente paradosso, che insomma noi non abbiamo neanche letto John Donne, che il risparmiatore italiano alla fine si convinca che siamo davvero un'isola, siamo un'isola nei mercati separati, nel mercato del lavoro e quindi anche nel mercato finanziario. No, non siamo un'isola, soprattutto in quello finanziario, nel mercato del lavoro lo siamo più di più, come nel mercato dei prodotti e dei servizi, ma i servizi finanziari sono quelli più globalizzati. E quindi, conclusione della giornata, diciamo che abbiamo avuto opinioni diverse, perché Sapelli è il più netto a dire che Tremonti ha ragione e che quindi i politici sono un po' sconfitti dai banksters, ma Sciandaro dice dicono la stessa cosa Tremonti e Draghi, e però comunque prende atto che 3 anni di chiacchiere non hanno prodotto grandi significativi risultati sulla regolazione, quindi ha cambiato l'ottica della regolazione dicendo tasse direttamente per tipo di prodotti. Franco De Benedetti dice guardate il mercato, continuate a parlare male e peggio, ma il mercato è meglio dei politici e dei banchieri centrali. Bene, la mia conclusione comunque è che lo Stato mi pare che come sempre anche oggi ne esca a pezzi, cari amici Topolini, depredati dall'Agenzia delle Entrate. Questo è quello che ci danno in cambio? Come vedete, opinioni che non traducono in fatti e garanzie per i risparmiatori. La mia conclusione è che anche oggi avete di che riflettere su usare Voice o usare Exit per andarsene da questo paese. Voice significa prendere calci nel sedere i politici di qualunque colore siano. Grazie quindi ai nostri ospiti di oggi, a Donato Masciandaro, a Giulio Sapelli e a Franco De Benedetti. Grazie a tutti coloro grazie ai quali sono andati in onda, cioè a Filippo Reggi in regia, Alessandro Chiappini in redazione, Alessandro Marco Tulli, a Guerrera, e a questo punto appuntamento Topolini a domani.